Lo spettacolo Simone Veil, concerto poetico, testi, elaborazione poetica e voce live electronics, Ilaria Drago. Musiche originali e sonorizzazioni, Marco Guidi. Lo spettacolo Due cani, ovvero la tragica farsa di Sacco e Vanzetti, di e con Lino Musella e Paolo Mazzarelli. Testo di Paolo Mazzarelli con estratti dalle dichiarazioni di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Signore artista, è per rotto la funzione. Come faceva? Signore artista, è per rotto la funzione, sono pregato. Fai uguale. Come faceva? Ho fatto carmi, non facciamo i pagliacci. Non si deve attendere, però non funziona. Come è uguale. Io lavoro da anni e anni per diventare una limpida unità di un sindaco di paese dell'artista. Artista. Il sindaco c'è anche il parroco, e pure Don Camillo l'ha fatto. Cioè, gli hai detto? Un tal padre gli hai detto qua Don Camillo? No, le facevo sì per fare una battuta. Gli hai detto a loro? No, non ho detto niente. No. No. Le facevo per fare una battuta. Come gli hai detto a loro? Quando non capito la città. Adesso ho detto a te per fare una battuta. Solo il tuo cammino. Posso permettermi di fare un piccolo... Nel senso che tu a volte dici delle cose che poi non ti ricordi che hai detto. Magari che ti è scappato. Non ho detto a Camillo, no? Cioè no. Adesso non ho detto niente. No, adesso prima no. No, prima non ho detto niente. Va bene, perché se non devo uscire, ho detto, signor artista, due cani e... Sacrario. Nessuna piccola allusione al non Papa. Non ho fatto nessuna allusione. Potere del... Niente. Io non gli ho detto niente. Non gli ho detto niente. Vabbè, però non gli ho detto niente. Niente. Un paese talmente assurdo. Noi ci siamo fatti tutti i paesini della zona, uno a uno, ma questo paese qua è veramente assurdo, guarda. Sì, io dicevo l'Italia. Ah, l'Italia. Non è assurda l'Italia. Perché tu sostieni che l'Italia è bella, ma l'Italia è bella, è bellissima, sono assurde magari la Scandinavia, la Svizzera, non lo so, io non sono mai stato, mi sono mai visto, non ho fatto una visita. Ti fidi un po' di me? Che? Vabbè, allora l'Italia c'ha i loro problemi. L'Italia c'ha i loro problemi? Non sei quello che scrivi, lo scrittore. L'Italia c'ha i loro problemi. Vuoi venirmi a insegnare italiano? No, vieni, avanti, insegnami l'italiano. Ti ha studiato l'italiano per strada, no, non ti insegno proprio niente, non ti insegno proprio niente. L'Italia c'ha i loro problemi, allora caro, a parte che l'Italia c'ha i loro problemi, se dobbiamo entrare nell'argomento, ci si può dire, si può dire assolutamente, se tu immagini che c'è un gruppo di persone che identifichiamo come loro, l'Italia c'ha i loro problemi, si può dire, anzi, è bellissimo, è anche un senso recondito e basta fare delle ironie. No, l'Italia c'è loro, è come dice. Come dice? Italiano, un cartaccio. Dai, no, piacere, no, giusto pomidoro. Carlo c'è il loro problema. Siamo qua. Piuttosto Carmine, se per caso tu credi che c'è qualche possibilità che la soluzione di questa cosa sia in questa direzione, diciamocelo, perché io non ho molta voglia di perdere tempo. Cioè, i problemi di loro. Allora, diciamo, siccome sappiamo entrambi che tu nel passato hai avuto qualche problemi, no, quella cosa, con la giustizia. Ma perché devi dire queste cose? Tu sei pettegolo, vai a mettere queste voci in giro, non è vero. Siamo io e te. Non è vero. Allora, Carmi, tu hai avuto problemi. Io non ho avuto nessun problema. No, ma poi non c'entra niente questa cosa. Non c'entra niente. Allora, siamo qua, non sappiamo perché. Metti che il sindaco ha visto negli archivi che può avere dei problemini. Ma chi gliene frega un sindaco di paese? Dimentichi. Chi gliene frega se quello vede che uno e due fa dei problemi? Signor ispettore, questa sua ipotesi, non stai in piedi. Ah, non stai in piedi. Non stai in piedi. Va bene. Io sono messo. Comunque, Carmi, tu non hai idea. Allora, ho trovato una soluzione. Ecco, mi dice. Che io ho dei problemini e stiamo qua per tutti. E io non la vedo così. Allora, no, io sono facciamo dei problemi, non c'è qua. Non li hai avuti? Vabbè. No, non ho avuto i problemi, siamo qua perché io ho avuto i problemi. È per questo che siamo qua. Vabbè, se non si può parlare da me. No, no, parliamo. Non hai avuto i problemi? Ho dei problemi, vabbè. Però perché siamo qua? Perché io ho avuto i problemi. No, perché siamo qua? Perché io ho avuto i problemi. Siamo? Potresti evitare per piacere? Sto facendo. Carmine, tu non hai il controllo di quello che tu fai col tuo corpo. Va bene, se non hai il controllo. Allora, adesso stai facendo allora, lui stava facendo lo spettacolo, è uscito il sindaco, poi è uscito il parroco, poi sono usciti tutti quanti, il sindaco ci ha detto i signori artisti hanno interrotto la funzione, sì, e io ho detto artisti, artisti a chi? Noi siamo due cani. Vabbè, evidentemente due cani, lo hai scandito perché se no lui non capiva. Io ti vorrei segnalare che io ho un tono poggiato naturale, non ho bisogno di scandito. Buonasera, sì, siamo noi, infatti. Certo. Allora, diciamo, l'altra persona si chiama Carmine Faccetta. Esatto. Io sono Augusto Pomidoro. Sì, colò, Pomidoro. No, Pomidoro. E guardi, allora, né singolare né plurale, Pomidoro, come sacchi a pelo. Allora, non mi dica. No, guardi, allora, questa cosa della frase sconveniente, veramente, non abbiamo detto questa frase sconveniente, non veramente, non va mai. Pronto? Buonasera. Allora, noi stiamo facendo lo spettacolo sul sagrato della parrocchia, della chiesa, esce prima il sindaco, poi il parroco, poi sono tutti quanti, e il sindaco ci dice: i signori artisti hanno interrotto la funzione. Io dico artisti, artisti a chi? Noi siamo due cani. Due cani in gergo teatrale significa due attori molto scarsi, che siamo noi. No, proprio due cani. Ti dico proprio esattamente. No, io uso dire questa cosa di due cani. Ti dico, sai, appunto, ti devi rassegnare, siamo due cani, due cani, due cani! Che hanno scosso le coscienze, tutto qua, cioè evidentemente, come spiegare, nella storia del teatro, no? Tutti quelli che hanno sempre provato a fare un teatro impegnato, un teatro che c'è dentro, questa cosa che hai detto, come si chiama? Ecco, quelli che hanno fatto nella storia del teatro un teatro impegnato, io ti facciamo, facciamo il teatro impegnato. No, guarda, noi facciamo cabaret. Ma tu sei proprio un gnuccolone. Ma tu vuoi sapere il teatro che facciamo noi? Allora, la gente stanno tutti male, stanno tutti senza una via. Poi vedono noi due che stiamo molto peggio di loro. Si compenetrano, si medesimo, succede la catarsi, ci ridono dietro e tornano a casa contenti. E questo è il nostro teatro impegnato. Perché non ti invicchi quando vieni a casa? Ma invicchiati a te! Capisci che se noi facevamo il cabaret, noi stavamo una cosa impegnata. Stavamo a cena col sindaco. Noi siamo qua perché facciamo il teatro impegnato. Sì, siamo qua perché facciamo il teatro impregnato. A me spiace per te che non ci arrivi, perché tu capisci che noi, il nostro teatro chiede delle reazioni. Muore o cattivo, ma delle reazioni. Cosa ci toglie da quella schifosa mediocrità in cui siamo, ci mette alla testa di artisti di un certo rango. Cioè, la storia del teatro hanno sempre trovato. Allora, noi volevamo fare il cabaret, però c'è uscito il teatro impegnato. Impregnato. Pronto? Sì, guardi, buonasera. Allora, è mio. Cioè, in che senso? Allora, qui dice, ma guardi, adesso va bene tutto, però ci sono proprio dei livelli minimi di dignità. E no, capì? Pronto? Pronto? Non mi capace. Capisco che bisogna avere a che fare questa persona. Assurdo. Cosa voglio dire? Adesso va, cioè c'è un limite. Ma che stai facendo appunto? Come ci hanno visto fare lo spettacolo? Lo spettacolo, così è il titolo puramente onorifico. Il titolo puramente onorifico. Allora, sì. Ci hanno visto fare lo spettacolo. Tu fai. Io no, io non sono d'accordo. No, ma no, neanche io sono d'accordo. E non ci sono le condizioni, no, secondo me è quello che infatti sentito. Non facciamo proprio niente. Io ho detto no, che ci sono le condizioni. No, non facciamo, io non faccio però niente. Decidiamo assieme. No, non faccio proprio niente. Però vediamo un attimo,

No, dico come poi, non lo so. Su. Non lo so, io non... Tu non ci trovi una cosa in tasca. E che ci metto dentro? Proprio. Cioè, ma questo, scusami, mi hanno detto, infilare la busta. No, la busta. Poi soldi e la fessura. Non lo so, non lo so. Vabbè, però è... È subito, sì, un po'. Non so, anche con questa... La fessura c'è. Un po', e c'è, prendi in qua. C'è la fessura. Eh sì. E fa proprio... E ci manca la busta con i soldi. Del convento, lo spettacolo. Oh, mamma mia. Aspettiamo, ci chiama. Non ti sta addosso. Non ti sto addosso, tu hai fatto questa cosa. Speriamo. Non mi guarda la prendere un attimo di terra. Sì, sì, lo vado a prendere, mi chiederà. Però... Se lo fa, non so dove so. Guarda, non vi posso dire la cosa. Mi sta facendo qui. Ma che ti sei visto nella tasca? Giusto, sto guardando, farmi una fessura. Ma che sei che adesso che ti sei visto nella tasca? Non sto guardando su questa fessura. Ho capito, ho visto che ti sei visto una cosa nella tasca. Ah sì, no, questo è. E che è? Un po' di carte. No, fai vedere. Volevo vedere. Posso fare una cosa? Un attimo, posso vedere. Sono dei soldi. Che sono questi soldi, Augusto? Non so. Com'è che c'è questa busta? L'assessore. Ah! Era questa busta con i soldi? Sì, mi ha dato questa busta con i soldi come... Ci siamo messi d'accordo all'ultimo gettone di presenza. Gettone? Che adesso non va a gettone? Come presenza dello spettacolo, e tu non mi dici no, è chiaro, no, perché mi dovresti dire qualche cosa, ti danno questi soldi, tu giustamente te ne ti danno, mi sembra logico una cosa. No, mi sembra una cosa, ma mi sono messo in tasca, nel senso, cioè, era una tasca. Thank you.

Come anche perché è un tipo di industria che sta anche portando il pianeta al collasso, per cui insomma è tempo di indagare su questo fenomeno. Come nasce questo progetto? Intanto nasce proprio da una mia pulsione estremamente personale, perché io da qualche anno sono diventata vegana, sono diventata attivista per i diritti degli animali, dopo peraltro aver visitato un mattatoio industriale, per cui insomma la mia vita ha subito uno shock radicale dopo questa esperienza, perché per la prima volta mi sono messa dall'altra parte, cioè dalla loro parte. E ho capito che ogni giorno c'è una catena che si muove, ci sono corpi che vengono fatti salire su dei camion, vengono trasportati per viaggi lunghissimi, vengono poi macellati e non riusciamo a empatizzare con il loro terrore, il loro dolore, che è veramente vederlo dal vivo, vi giuro, è un'esperienza indimenticabile. Quindi non è uno spettacolo giudicante, perché noi non siamo lì a dire alle persone cosa devono fare, però abbiamo proprio la pulsione forte del fare informazione, cioè dare gli strumenti alle persone di rendersi conto di che cosa c'è dietro un piatto servito, fumante e ben condito. Insomma, c'è tutto un mondo, no? Passo poi di sfruttamento, di fatto. Quali sono state le fonti di riferimento? Questo è uno spettacolo che include vari linguaggi, c'è la prosa, la performance, c'è il video e c'è la musica live, ovviamente. Quindi io da autrice teatrale ho scritto una storia d'amore fra una mucca da latte, che è appunto il 1223, il cui numero è il numero identificativo che i bovini hanno nelle orecchie, è una storia d'amore fra due bovini che poi culminerà nel loro viaggio verso il mattatoio. Quindi c'è una zona teatrale di prosa molto emozionante e poi c'è una zona di grande informazione, grazie anche ai reperti video di Animal Equality, che è un'associazione internazionale per i diritti degli animali, e c'è tutta una zona tecnica attraverso lo studio meticoloso di fonti. Noi rendiamo pubbliche proprio le regole standard di macellazione degli animali e quindi lo spettatore avrà davvero tutto, avrà l'emozione del teatro, l'emozione della musica, il video, che comunque non saranno mai eccessivamente cruenti, perché noi non crediamo nella pornografia come comunicazione, però insomma è un bel viaggio a tutto tondo, cioè davvero di tutto. Forniamo davvero allo spettatore tutti gli strumenti per fare un'indagine completa. Come siete arrivati a questa formula multidisciplinare? Perché non è facile fare uno spettacolo che parli di questo. Io ho indagato tanto sul come, perché è un attimo che puoi cadere nel patetico, è un attimo che cadi solo nel teatro narrazione o nel teatro insomma più documentaristico. Io volevo prima di tutto raccontare una storia che potesse emozionare, però al contempo dobbiamo anche dare delle informazioni scientifiche, e quindi mi sono inventata questo viaggio che poi coniuga una serie di possibilità comunicative, e devo dire che questa formula è molto efficace in teatro, perché sennò è difficile parlare di certi temi senza rischiare o di rimanere troppo freddi o di annoiare o di essere troppo ridondanti, troppo romantici. Per questo, come è stato accolto da chi si occupa di diritti animali? È stato accolto in una maniera incredibile, nel senso che è uno spettacolo veramente che ha messo d'accordo tutti. Noi abbiamo fatto un'anteprima a Roma, a Carrozzeria Notte l'anno scorso, proprio per testare, e c'era un po' di tutto, c'era dall'attivista, c'era l'onnivoro, c'era colui che è un po' indeciso, e sono usciti tutti, devo dire, con degli occhi pieni di emozione, lacrime belle, lacrime importanti, e alcuni erano veramente sotto shock. È stato accolto molto bene anche da chi si occupa appunto di diritti animali, hanno apprezzato molto la nostra formula, devo dire, sì. Dopo Roma proseguirete in Italia? Assolutamente sì, tra l'altro questo spettacolo sta scatenando i social, perché ce lo stanno richiedendo spontaneamente in varie città, cosa che non capita tutti i giorni. Io per spingere i miei spettacoli di teatro non si sa la fatica che devo fare, invece questo sembra camminare da solo. Siamo stati a Taranto ultimamente, andremo a Torino a marzo, poi stiamo lavorando per Bologna, Milano, Napoli, insomma speriamo davvero di farlo girare il più possibile. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Assolutamente sì, intanto potete seguire la mia pagina Facebook Elisa Di Eusanio, che ci sono sempre tutte le informazioni, ma noi saremo all'Altrove Teatro Studio il 27, 28 e 29, ci sono tutte le informazioni sul sito del teatro Altrove, che è a Cipro, e poi ovviamente seguendo le mie pagine Instagram, le mie pagine Facebook Elisa Di Eusanio trovate veramente di tutto. Lo spettacolo 12-23, ultima fermata Mattatoio a Roma, Altrove Teatro Studio, dal 27 al 29 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Elisa De Usanio. A presto! Grazie a te, ciao! È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana per il teatro e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa settimana, che è quella che ci conduce al giorno della memoria, che porterà sul palco un po' di lavori dedicati a questa ricorrenza ormai insomma storicizzata, importante all'interno del panorama annuale. Gennaio, la fine di gennaio è il giorno, o in qualche modo poi la settimana della memoria, perché insomma attorno a quel giorno si articoleranno molte attività. Ma andiamo a vedere un po' cosa ci offre la settimana. Dunque, partiamo dal Teatro Tor Bella Monica, perché questa settimana, come ogni settimana del resto, perché è particolarmente prolifico il Teatro Tor Bella Monica in questa stagione, fare molti spettacoli, soprattutto per chi magari è più vicino a quelle zone. Insomma, stiamo sempre parlando di una città molto vasta, Roma, sono tante città insieme, e quando parliamo di alcuni teatri magari l'offerta vista dall'altra parte della città sembra meno interessante, però per chi abita lì e magari ha più fatica ad arrivare nei teatri del centro, che sono insomma organizzarsi una serata teatrale, magari invece è l'occasione per vivere il proprio quartiere, anche se il teatro si trova in una posizione non particolarmente felice sotto questo aspetto, insomma, non ha un quartiere attorno, è un po' un'isola in mezzo ai cavalcavia. Dunque, l'ultima settimana di questo mese offre Maddalena, una rappresentazione civile che si concentra sulla figura della donna, di una donna in particolare, appunto, la Maddalena del titolo, che racconta le periferie romane, il margine, che appunto sono a tutti gli effetti un microcosmo sociale che desidera, ci dice la scheda, essere lasciato in pace. Almeno questa è l'idea che sia un posto abbandonato nell'immaginazione borghese, però nella realtà insomma chi li vive lo rende un posto appunto vivo, pulsante, vitale, e Maddalena è esattamente, vive proprio questo contesto qui. La drammaturgia è di Paolo Maria Congi. Quindi Maddalena sarà in scena con la regia insieme a Benedetta Casso, e sarà in scena al Teatro Tor Bella Monica 26-28 gennaio. Il 28 e domenica 29 sarà l'occasione anche per Il padre della sposa di Caroline Franchi, con la regia di Gianluca Guidi, sempre Tor Bella Monica, che presenterà lo spettacolo anche per i più piccoli. Domenica 29 gennaio con Artù e la spada nella roccia, con l'autore e regista Marco Cavallaro e vari altri attori. Concluso il Tor Bella Monica, direi di aprirci su altri spazi. Appunto, gli spazi ce n'è uno, lo spazio. Il 28 e il 29 gennaio presenta un monologo scritto e interpretato da Fabio Cicchiello, regia è quella di Francesco Spaziani, che è Opinioni di un uomo comune. Uno spettacolo che cerca di rappresentare in due scene il dramma comico e per esorcizzare la paura della solitudine chiama a raccolta, diciamo, quelle che sono le opinioni di un clown, che in questo caso diventano le opinioni di un uomo comune. Il clown alle prese con un tormento profondo: agire o lasciare che tutto accada. L'unica strada che sembra possibile percorrere è quella dell'ironia, e questo è il grande insegnamento che già appunto Le opinioni di un clown, grande libro del secolo scorso, ci avevano consegnato, e Le opinioni di un uomo comune sembrano un po' ricalcare questa struttura. Franco vorrebbe che una statuetta di Gesù lo aiutasse a riconquistare la sua ex. La ricerca del miracolo è un po' in qualche modo quello che si aspetta, ma un po' anche quello che si va a cercare. Quindi il protagonista partirà per l'Irlanda alla ricerca di questa donna, appunto la sua ex. 28-29 gennaio, Teatro Lo Spazio, Opinioni di un uomo comune. Argo Studio, 26-29 gennaio, per Torno ai carciofini, una storia wrestling di e con Impegnoso Roll Sesti, Silvio Impegnoso, lo dico, Roll e Alessandro Sesti vanno vincendo, per aver preso la menzione speciale per il scenario 2021, avevano già calcato lo spazio di Argo Studio per opere emergenze teatrali lo scorso anno, a maggio, e raccontava la storia di un'amicizia tra due inetti superficiali alla ricerca del successo. Finiranno per trovare nel wrestling il vero senso dell'arte e della vita. La stessa loro amicizia sarà messa a dura prova da questo addestramento, e ci sarà una figura enigmatica, appunto il maestro di vita, il sensei, colui che insomma è un personaggio dirimente per la loro amicizia, per il loro rapporto. Questo è quello che andremo a vedere dal 26 al 29 gennaio al Teatro Argo Studio, Tonno e Carciofini. Poi invece va a Spazio Diamante, prosegue e conclude il Festival in Divenire, perché questa settimana danno scena gli ultimi spettacoli in lizza per il premio. E ricordo alcune cose: questa sera sarà l'occasione per vedere la compagnia PGA Scar con Scomodi di Silvia Maria Vitale, la compagnia Di Parola con 500 lire, testo di Ludovica Bei con la regia di Josafat Bagni. Anche domani ci saranno altri lavori, domani insomma per tutta questa settimana. Segnalo anche Giulio Baraldi con Una relazione erotica venerdì 27, e segnalo anche un evento speciale del festival, un incontro tra le compagnie pubblico del festival con Maddalena Crippa giovedì 26 alle 18, mentre sabato 28 alle 18 ci sarà un incontro con Rodolfo Di Gianmarco, critico di Repubblica, insomma, che presenterà, che interverrà insieme alla giuria di questo premio. La sera della premiazione verrà domenica 29, mentre lunedì 30 l'evento di chiusura sarà uno spettacolo ospite, ovvero sia Disvidiata Creatura di Sosta Pannicci, con l'ideazione e la regia di Maria Lacedia. Siamo nell'ambito della danza, di un lavoro che si nutre della poesia di Chandra Livia Candiani, e capace di mettere in parole la sacralità dell'esperienza vitale. Questo è quanto vedremo lo Spazio Diamante in Divenire questa settimana. Ancora altrove, Teatro Studio, Elisa Di Eusanio presenta insieme ad Emiliano Merlin questo 1223-1223, ultima fermata a Mattatoio, La verità oltre a un prodotto chiamato Carne, questo il titolo e sottotitolo del progetto speciale di linguaggi ibridi, performing arts, live music, digital art, che Elisa Di Eusanio cura e presenta in scena. Un viaggio nei segreti dell'industria zootecnica intensiva che va a evidenziare il sistema che fa profitto con i corpi degli animali, e questo è il lavoro che vedremo dal 27 al 29 gennaio all'Altrove Teatro Studio. Invece dal Teatro della Fortezza Est tornano i Tre Barba, Lorenzo Deliberato, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo, che curano la regia e l'interpretazione di Rigoletto, da Giuseppe Verdi, Francesco Maria Piave, firmato I Tre Barba. Questo è un tentativo ormai storico di questi ultimi anni di portare su un palco come quello della Fortezza Est, prima ancora del Teatro Studio 1, l'opera lirica, questa vicenda ambientata a Mantova nel XVI secolo, dove Rigoletto, il gobbo buffone, che non è esattamente quello che dovevo dire, ma ormai l'ho detto, ha una figlia Gilda, la cui esistenza tenta di mantenere segreta ai cortigiani, e questi cercano di vendicarsi di lui per le sue feroci beffe. Questa è la storia di Rigoletto, che poi segue con tanti vicoli di senso, tanti vicoli di gag, per appunto lo spettacolo dei Tre Barba, andare alla Fortezza Est 26-28 gennaio. Ancora al teatro, perché avevo dimenticato lo spettacolo precedente, quello che abbiamo segnalato, perché Claudia Genolini presenta Come l'Australia, 25-27 gennaio, la storia di una donna che si ritrova in continuazione a dover scegliere l'amore, il lavoro, la famiglia. Questa è una storia universale, insomma, che però entra a contatto con la vita di tutti, la scelta. Come scegliere? Quanto è difficile scegliere? Ci vuole coraggio? Ci vuole desiderio? Cosa ci vuole per scegliere? Ecco, questo è il tema di questo lavoro di Claudia Genolini, 25 e 27 gennaio Teatro Lo Spazio, come l'Australia. Poi Teatro Basilica invece, da questa sera, 24 gennaio fino al 5 febbraio, arriva a Roma il Teatro Franco Parenti, e precisamente il testo Costellazioni di Nick Payne con la regia di Raffaele Tobia Fugel, e in scena Elena Lietti, Pietro Micci, due interpreti per questo lavoro di drammaturgia britannica. Payne indaga il sentimento umano per eccellenza, l'amore, e su questa drammaturgia aperta a mille possibilità, ha detto Mia Rommel, scava personaggi confezionano uno spettacolo di sensazioni profonde, cioè un lavoro legato alle possibili infinite fasi di una relazione. È una storia d'amore quella che viene raccontata però con le leggi della fisica. Questo è quanto andremo a vedere dal 24 gennaio al 5 febbraio, da questa sera, con Costellazioni di Nick Payne, regia di Raffaele Tobia Fugel, al Teatro Basilica. Poi parlavamo dei grandi appuntamenti legati appunto al giorno della memoria, 27 gennaio fino al 12 febbraio, per il diario di Anna Frank con la regia di Carlo Emilio Lerici, al Teatro Belli, quindi su cui insomma c'è poco da dire, conosciamo la storia di Anna Frank ormai dalle scuole medie, già non prima per molti di noi. Ce l'abbiamo anche in archivio. Peraltro. Allo stesso modo, per sempre per lo stesso motivo, dal 24 al 29 gennaio al Teatro della Cometa Off andremo a vedere L'amico ritrovato con la regia di Alessandro Sena. Il titolo prende chiaramente l'omonimo libro di Fred Ullman, che però in realtà ha Reunion come titolo originale. L'amico ritrovato, appunto, racconta la storia di un'amicizia nata sui banchi di squadra, Hans e Corradin, due ragazzi legati da sincera e profonda amicizia, ma chiaramente separati dalle leggi razziali, storie che più o meno già conosciamo tutti. Ultimissime cose, Teatro Marioli, per andare a vedere Il figlio di Florian Zeller con la regia di Piero Maccarinelli, lo spettacolo che fa parte della trilogia Padre, Madre e Figlio, testi non collegati tra loro, che però insomma hanno simili implicazioni umane e sociali. Questo è un lavoro chiaramente che già ha avuto delle rappresentazioni in giro per il mondo, quindi insomma gli attori sono attori notevoli, ricordo giusto Cesare Bocci, Aratea Ranzi, insomma attori di esperienza e di nome. Nicola frequenta l'ultima classe del liceo, vive in casa della madre Anna. Suo padre Piero ha appena avuto un altro figlio con la sua nuova compagna Sofia. Anna informa il padre che Nicola da 3 mesi non ha più frequentato il liceo, secondo lei ha una depressione adolescenziale. Questo è il punto di partenza per questo figlio di Florian Zeller, che con la regia di Piero Maccarinelli sarà sul palco del Teatro Parioli questa settimana, dal 25 febbraio gennaio fino al 5 di febbraio. Quindi c'è un po' di tempo per vedere questo lavoro. Io ancora segnalo che al Teatro Vascello va in scena Monio Varia da questa sera fino al 29 gennaio con un vecchissimo lavoro, Oilem Goilem, uno spettacolo che riporta in luce la lingua yiddish, nel senso dell'ironia che cerca di restituire l'humus del mondo yiddish, del mondo ebraico, fin appunto dalla sua manifestazione nella lingua più originaria, più antica, che mescola tratti di lingue varie. Monio Varia è giunto nel panorama italiano per la sua originalità proprio con questo spettacolo, era la metà, alla fine degli anni 90, e questa filosofia umoristica che c'è in Oilem Goilem è un antidoto contro violenze, intolleranze, razzismi. Questo è il lavoro che appunto ha consacrato Monio Varia, un tavolo cult che andremo a vedere di nuovo dal 24 al 29 gennaio sul palco del Teatro Vascello. Perché amiamo alcune specie di animali e ne sfruttiamo altre. Questo è quello che la compagnia Controcanto Collettivo porterà dal 27 al 29 gennaio con Salto di specie sul palco del Teatro Biblioteca Corticciolo. È un'indagine sul tema dell'empatia tra esseri viventi e sui meccanismi che favoriscono o arrestano proprio questo flusso di relazione. La relazione tra umano e animale in questo mondo è paradossale, e questa empatia, insomma, in qualche modo diventa a tutti gli effetti anche gastronomia talvolta. Quindi è davvero curioso il rapporto che abbiamo con gli animali, che andremo a scoprire sul palco del Teatro Quarticciolo 27-29 gennaio. Ultimissima per questa settimana è la presentazione dal 27 al 29 gennaio degli studi di Sciccherie, la piccola rassegna appunto di studi, di piccoli spettacoli che il Teatro Carrozzerie Not presenta al pubblico per appunto esprimere un po' il teatro che si sta facendo nel momento in cui si fa. Quindi Carrozzerie Not continua a mostrare la propria officina. Segnalo gli spettacoli di Uri Casagrande Conti con tutti messi in fila. Poi io mi ricordo quando il spettacolo di Nicolò Iroldi, Samuele Gambino, due attori che insomma ho visto fin dai tempi più giovani, adesso vedo insomma che vanno in scena con il loro lavoro e questo mi fa molto molto piacere. E Lorenzo Ciambrelli presenta Gam invece, che dal thailandese significa karma o maledizione, questo sarebbe il 28 gennaio, mentre invece seguirà Laura Giannatiempo, attrice anche lei insomma particolarmente nota al pubblico romano negli anni, con questo suo Hitler, HTLR, Hitler è appunto Hitler, leggiamolo con le vocali, prepara l'ultimo discorso al mondo, ignaro di cosa ci sia fuori, ed è chiusa nel suo bunker. Questa è la situazione. Andiamo a vedere anche Rebecca Righetti con Cade la neve e Figurati io, probabilmente sono due movimenti, vedo di aver segnalati con un titolo duplice. Ancora con Cecilia Bertozzi, Federico Cicinelli, Maria Sgro per Scroll, questo lavoro cui seguirà Lorenzo Guerrieri con Esercizi di resurrezione. Qui Lorenzo Guerrieri dice niente, è andata così, Lorenzo non ce la fa, un giorno si è risvegliato nel suo letto completamente putrefatto. Questo è quello che chiuderà le Sciccherie della Carrozzerie Not e chiude anche la nostra trasmissione, un vero consiglio teatrale, spero con meno rischio di putrefazione e un po' più di voglia di andare a teatro. E questo è tutto, ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.